ma non parla se non è con chi l'ascolta. Mica da ridere sarà la sua rivolta. E lungi da me, lo ripeto, vattene da me, che qui sono io che comanda la baracca e porta avanti la tua faccia. Caccia, torre di bisogni futili, inutili, tutti i tentativi di distoglierti lo sguardo, tranne cucirti gli occhi. Forse due sono troppi, ma con uno rimarrebbe che ti vedono tutti. Tranne cucirti gli occhi, forse due sono troppi, ma con uno rimarrebbe che ti vedono tutti. Tranne cucirti gli occhi, forse due sono troppi, ma con uno rimarrebbe che ti vedono tutti. Prenuncio la fine di ogni istanza, ad ogni mio obliscenza, la mia superfa arroganza. La stasi mia anima mi genera, ho dormito fino ad ora, ho posto solo la mia figura anonima. Continuata a lamentarmi, accuse, sintomi, di allarmi, continuata a lamentarmi, resto immobile, covermi. Continuata a lamentarmi, accuse, sintomi, di allarmi, continuata a lamentarmi, resto immobile, covermi. Solo sono posto in pausa a causa delle mie funeste gesta, a causa dei miei continui mal di testa. Deterioro dell'eterio, ma non lo faccio apposta. Deterioro dell'eterio, dell'eterio, ma non lo faccio apposta. Non lo faccio apposta, non lo faccio apposta, non lo faccio apposta, non lo faccio apposta. Scena immobile, tutto il resto è niente. L'obiettivo ora è noto, ma l'ho avverto più distante. Un sonno coma permanente, detta le mie frequenze. Principe del sonno rinchiuso nelle mie stanze, le mie stampe, le mie stanze. Prendo lo complesso, il filo delle inferenze. Logica in modo proprio, inutile al primo sole. Il vero resta tale solo se la teoria conviene. Il vero resta tale solo se la teoria conviene. Il vero resta tale solo se la teoria conviene. Il vero resta tale solo se la teoria conviene, solo se la teoria conviene, solo se la teoria conviene.